Jeff. Undicesima edizione faticosissima, voi sapete il perché, il Covid è stato tremendo, siamo in Piazza Maggiore, partiremo il sabato 18 alle 17.30 in via Orefici con la posa della stella per Benny Goodman, grandissimo clarinettista con una delle più grandi orchestre del mondo suonava, e poi ci trasferiremo sabato subito dalle 6.30 in Piazza Maggiore per il primo concerto con tributo a Benny Goodman, poi alle 21.30 Comini con la sua grande orchestra insieme a Vianello e a Baudo farà una sorta di spettacolo contaminato, molto interessante e soprattutto divertente, dobbiamo divertirci, basta lagnarci, divertimento a go go. E poi domenica chiudiamo con una donna meravigliosa che canterà Le donne, quindi questa è una cosa che ci fa molto piacere, con note oblique, con note che si arrampicano sul pentagramma, Silvia Mezzanotte canterà le grandi artiste della musica internazionale. Come ci si farà a prenotare? I posti sono ovviamente contingentati, bisogna andare su un sito. Allora, i posti sono 200, non di più, i posti sono stati dati agli sponsor per ovvi motivi, ma la piazza è aperta. Con il distanziamento ci sono i ragazzi di Amaci e di FANEP, che sono due associazioni molto importanti del Sant'Orsola, le quali ragazzi, tanti, faranno in modo che la gente non si assembri. Quindi abbiamo pensato a tutto, l'unica cosa a cui non abbiamo pensato, ma non dipende da noi, è il tempo, ma siccome siamo degli inguaribili ottimisti ci sarà un sole pazzesco. Speriamo sia così, in modo da poter godere appunto delle note di questo festival. Un jazz che di nuovo torna a Bologna. Che rapporto c'è tra la città e questo genere musicale così amato e così con una nascita anche così particolare? Mio fratello Alberto, dalla fine degli anni, a metà degli anni 50, all'inizio degli anni 70, ha costruito Bologna una capitale europea e anche morale del jazz. Tutti i grandi artisti venivano a Bologna per cantare, dire qualcosa in puro stile bebop. Da Miles Davis a Chet Baker, molti di questi sono nelle stelle di Via Orefici. Era una città pazzesca, una città che amava il jazz, una città che con il jazz faceva socialità, si suonava dappertutto, ed è quello che poi noi abbiamo voluto rifare gratuitamente, senza biglietti, regalare al pubblico un paio di giorni di svago, di divertimento, speriamo di musica bella e soprattutto di spensieratezza, che è quella che ci vuole, non pensare alle cose negative che ci hanno massacrato in questi due anni. Sicuramente la musica aiuta moltissimo a allontanare i cattivi pensieri, lasciandosi trasportare appunto si può vagare con la mente. Il jazz può essere ancora di moda, può essere ancora un genere che trascina anche i giovani. Il jazz ha una caratteristica: se non hai swing non puoi fare jazz. Lo swing è qualcosa che ti trasporta, ti spiazza, ti porta in un'altra dimensione, ti fa vivere delle atmosfere pazzesche, ed è quello che i giovani che non sono stati mai contagiati da questa musica, se verranno, lo saranno, come è stato in passato. Noi abbiamo avuto tantissimi giovani. Una caratteristica di questo festival è sempre stata quella di integrare diverse generazioni, i giovani e i meno giovani, insieme per ascoltare buona musica.